Certamente tutti voi sapete che ogni creatura prega e non sempre noi siamo in grado di sentire la loro preghiera perché non siamo santi, perché Sant'Antonio era capace a Rimini, in riva al mare, di sentire la preghiera muta dei pesci ai quali pure ha fatto una predica. E San Francesco era capace di sentire la preghiera anche del lupo, di ogni tipo di uccello. Io sto tentando di chiedere al Signore: Signore, insegnami come la natura crea, e allora anch'io sono capace ormai di conoscere la voce del merlo quando prega in certe giornate di tarda primavera, quando in cima a una fronda d'albero, sulla sponda più alta di un tetto, lancia il suo fischio, il suo zufolare. È meraviglioso, ti innamori della preghiera del merlo. E ho imparato a riconoscere anche la preghiera del fringuello. Ha un modulare stupendo, lo distingui subito. Dice: ma come fai a capire? Dice: perché tu non senti la sua preghiera. Io la riconosco subito. Finché anni fa sulle Dolomiti ho imparato a riconoscere anche la preghiera dell'asino. Pioveva, eravamo a 1600-1700 metri, in mezzo a un prato c'era un asino che la pigliava tutta l'acqua, tranquillo, irremovibile. A un certo punto alza il muso verso il cielo ed esplode in un raglio bellissimo. Solamente chi non ha ascoltato mai il raglio dell'asino lo scherza, ma il raglio dell'asino è bellissimo, parte fortissimo e finisce quasi singhiozzando. Anche l'asino prega, amici. E allora io che sto imparando ad ascoltare la preghiera di ogni creatura, chiedo al Signore che mi aiuti a imparare anche certe preghiere buttate lì che mi farebbero voglia di scappar fuori di chiesa quando dicono il rosario inseguendosi a una velocità spaventosa. Ma dico: Signore, dammi la pazienza di ascoltare anche questo anche questa preghiera di queste persone che pregano in questo modo. Ma poi è bellissimo quando qualche persona ti apre il cuore e ti dice che, per esempio, quando prega ha una devozione fenomenale verso la Madonna, e tu li stai a sentire perché tu senti che sono vere queste persone. Oppure un'altra ti dice che ha una devozione straordinaria a Padre Pio o a qualche santo. Io ho imparato a riconoscere anche queste preghiere, a non deriderle come fanno certe persone, perché ogni asino raglia a modo suo, ma sale al cielo il verso di ogni creatura. Sale al cielo anche la mia preghiera. Io ho imparato da Gesù a pregare. Ho imparato dall'Eucaristia, fin da piccolo. Quando andavo a messa tutti i giorni alle medie, senza che nessun prete me lo chiedesse, e alle superiori ho cominciato ad andare ogni giorno dalle 14 alle 14:15, sempre in prima panchina davanti al tabernacolo, perché parlavo con Gesù nell'Eucaristia. Non chiedetemi cosa vi dicevo, se no vi direi che siete curiosi, ma è bellissimo parlare con Gesù Eucaristia. E poi ho imparato a parlare a Lui attraverso la Sua parola, che è ancora più ricca, perché mentre a Gesù Eucaristia attingo da me, per la sua parola attingo dalla sapienza ispirata e sono preghiere straordinarie. Finché ho imparato la preghiera più bella di riposare sul petto di Gesù, come Giovanni nell'ultima cena, in cui taceva e ascoltava il battito del cuore di Gesù, ma era la penultima preghiera che ho imparato fino adesso. Poi ho imparato la preghiera che vi dico, perché sarei contento se tanti la conoscessero e la imparassero, la preghiera al Padre. E quando penso al Padre e penso al mio atteggiamento verso di Lui, mi viene in mente il verso dell'infinito di Giacomo Leopardi, solo che mi permetto di cambiare una parola. Lui dice: e il naufragarmi dolce in questo mare, io sento che la parola più vera è un'altra, e il naufragarmi dolce in questo abbraccio.